Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Knecht era ospite, rispettato e onorato più di quanto avesse supposto e oltre la giusta misura. Ma capiva perfettamente che erano forme e usanze non riguardanti la sua persona, né lo spirito castalio o il gioco delle perle. Era la maestosa cortesia di un'antica, grande potenza verso una potenza più giovane. Egli vi era preparato solo in parte e dopo un po' di tempo, nonostante la vita comoda e tranquilla di Maria Fels, si sentì così incerto che ricorse ai suoi superiori per ottenere consigli più precisi sul modo di comportarsi. Il Ludi Magister gli scrisse alcune righe di suo pugno. «Non preoccuparti se dovrai sacrificare molto tempo allo studio della vita di costì. Sfrutta le tue giornate, impara. Cerca di renderti utile e gradito secondo le usanze locali, ma non essere importuno, non apparire mai più impaziente dei tuoi ospiti, non mostrare di avere meno tempo di loro. Dovessero anche trattarti per un anno intero come se fossi appena arrivato. Accetta tranquillamente e comportati come se 2 o 10 anni di più non fossero nulla per te. Fa conto che sia una gara di pazienza. Cerca di meditare. Se l'ozio ti diventa increscioso, ebbene, prenditi alcune ore al giorno, non più di 4, per svolgere un lavoro regolare, come potrebbe essere lo studio o la copiatura di manoscritti, ma non dare l'impressione di lavorare e abbi tempo per chiunque voglia discorrere con te. Quando poi l'abate Gervasius finì col ricordarsi della missione per cui l'aveva richiesto e gli presentò alcuni padri ai quali avrebbe dovuto tenere il corso di perfezionamento, notò con stupore e da principio con grave delusione che la cultura del nobile gioco in quella sede ospitale era molto dilettantesca e che, in fondo, ci si accontentava di una quantità di nozioni assai misera. Al seguito di questa scoperta ne fece a poco un'altra, che probabilmente non l'avevano affatto mandato là perché insegnasse. Il compito di far progredire quel paio di frati mediocremente affezionati al gioco delle perle e di procurar loro la soddisfazione di un modesto rendimento sportivo era facile, troppo facile, e tale che qualunque altro ospite di Waldzell, anche se non ancora appartenente all'élite, avrebbe potuto assolverlo. Quell'insegnamento non poteva dunque essere il vero scopo della sua missione. Incominciò quindi a capire che dovevano averlo mandato là nel monastero non tanto perché insegnasse, quanto perché imparasse. Anche la promessa dell'oracolo, interrogato prima di partire dalla Castalia, si avvicinava all'adempimento. A lui, che viaggiava portando con sé tutto il suo, era stato promesso non solo l'arrivo in una casa ospitale, ma anche la costanza d'un giovane servo. E se ora la promessa veniva mantenuta, il viandante poteva scorgervi un buon segno, un segno che veramente portava con sé tutto il suo, che anche lontano da scuole e da insegnanti, da compagni, protettori e assistenti, lontano dalla natia, vivificante e soccorrevole atmosfera della Castalia, portava con sé lo spirito e le energie mediante le quali andava incontro a una vita attiva e preziosa. Infatti, l'annunciato giovane servo gli si avvicinò sotto le spoglie d'un allievo spirituale di nome Anton, e benché questo giovane non abbia avuto una parte nella vita di Joseph, costituì per lui in quel primo periodo a Maria Fels un segnale, un messaggero di cose nuove e più grandi, un araldo di avvenimenti futuri. Knecht lo incontrava in biblioteca. Alcune volte aveva anche conversato con lui, notando sempre più che il giovane, dagli occhi scuri e potenti sotto le sopracciglia nere, aveva per lui quell'affetto entusiasta e servizievole dei giovani e degli allievi rispettosi che aveva già incontrato e che da tempo, pur desiderando ogni volta di sottrarvisi, considerava un elemento salutare e importante nella vita dell'ordine. Nella biblioteca, l'unico luogo in cui incontrasse frequentemente quell'Anton, conobbe anche un uomo del quale da principio non si era nemmeno accorto, tanto era di aspetto modesto. Col tempo però lo avvicinò e per tutta la vita lo ebbe caro con rispetto e gratitudine, quasi quanto il vecchio magister musiche. Era padre Jacobus, forse lo storico più notevole dell'ordine benedettino. Un uomo che a quel tempo poteva avere 60 anni, segaligno, con una testa da sparviero, sul collo lungo, dai tendini pronunciati. bel giorno il padre gli rivolse la parola. Non aveva nulla di quel tono spiccatamente benevolo, volutamente cordiale e un po' untuoso, che sembrava essere lo stile della casa. Invitò Joseph ad andare dopo il vespro a trovarlo in camera sua. «Lei non troverà in me un conoscitore della storia della Castalia e meno ancora un giocatore di perle, ma siccome a quanto pare i nostri due ordini, per quanto diversi, stanno diventando amici, vorrei non rimanere escluso da questa amicizia e trarre anch'io qualche vantaggio dalla sua presenza». Parlava con molta serietà, ma la voce fioca e il volto arguto conferivano alle sue parole fin troppo cortesi quell'ambiguità cangiante fra serietà e ironia, fra devozione e leggero motteggio, fra aria patetica e tono scherzoso, che si può scorgere, ad esempio, nel gioco paziente e cortese di inchini che si svolge quando due santi o due principi della Chiesa si incontrano. La sera, quando si recò alla lontana abitazione del padre in fondo all'ala silenziosa e si soffermò a riflettere a quale porta dovesse bussare, udì con sua sorpresa il suono d'un pianoforte. Stette in ascolto. Era una sonata di Purcell, eseguita senza pretese o virtuosismo, ma pulita e ben ritmata. Godendosi la musica, aspettò la fine della sonata che, nel corridoio e in penombra, echeggiava solitaria e remota, valorosa e innocente, infantile e grave a un tempo, come ogni buona musica, nella irredenta sordità del mondo. Bussò. Padre Jacobus disse: «Avanti!» E lo accolse con la sua dignitosa modestia. Parlarono di musica, di Purcell, di Handel, dell'antichissimo culto della musica presso i Benedettini, ordine veramente artistico, del quale Knecht espresse il desiderio di conoscere la storia. La conversazione diventò vivace e sfiorò 100 questioni. Il vecchio possedeva nozioni storiche realmente meravigliose, ma non ebbe difficoltà ad ammettere che la storia della Castalia e del pensiero castalio lo aveva attirato molto poco, né fece mistero della sua posizione critica verso la Castalia, il cui ordine era, secondo lui, un'imitazione delle congregazioni cristiane e, a guardar bene, un'imitazione sacrilega, dato che non aveva per fondamento né una religione, né un dio, né una chiesa. A queste critiche Knecht si mostrò rispettoso, ma non senza far notare che in fatto di religione, di dio e di chiesa erano possibili concezioni diverse da quella benedettina e cattolico-romana, e infatti se ne erano avute senza che si potessero negarne la purezza delle aspirazioni o un profondo influsso sulla vita spirituale. «Giusto», rispose Jacobus. «Lei pensa tra l'altro ai protestanti che non hanno saputo conservare la religione e la chiesa, ma in certi momenti si sono mostrati molto valorosi e hanno avuto uomini esemplari. Un giorno feci la scoperta di un filologo, educatore e maestro di grande statura, un pietista svevo la cui influenza morale appare palese per ben 200 anni. Ma ritorniamo dunque alla questione della missione storica e legittima degli ordini veri e propri». «No, no», esclamò Joseph. «Si fermi. Si fermi per favore a quel maestro del quale stava per parlarmi. Mi pare quasi di aver indovinato chi fosse». «Ebbene, indovini. Dapprima pensai a Frank von Halle, ma lei dice che deve essere svevo. Non posso quindi pensare se non a Johann Albrecht Bengel». Squillò una risata e il viso dello scienziato si illuminò di gioia. «Mio caro, lei mi sorprende. Pensavo proprio a Bengel. Come fa a conoscerlo?» «Oh, nella sua meravigliosa provincia è ovvio che si conoscano nomi e cose talmente lontani e dimenticati. Stia certo che se volesse interrogare tutti i padri, gli insegnanti e gli allievi di questo monastero e magari anche quelli di qualche generazione addietro, nessuno conoscerebbe questo nome». «Mi pare un po' arrischiato introdurre nella vostra tavola genealogica proprio Bengel. Come lo giustifica?» «Fin nei suoi giovani anni, prima di dedicarsi al grande lavoro sulla Bibbia, Bengel comunicò una volta agli amici un suo progetto. Sperava di raccogliere e ordinare in un'opera enciclopedica tutto lo scibile del suo tempo, in forma simmetrica e sinottica, intorno a un centro, che sarebbe esattamente ciò che fa il gioco delle perle. È l'idea enciclopedica con la quale si è trastullato tutto il secolo XVIII!» esclamò il padre. «Precisamente», fece Joseph. Ma Bengel non aspirava soltanto a un allineamento dei campi del sapere e dell'indagine, bensì a un intreccio, a un ordinamento organico. Andava dunque cercando il denominatore comune, che è una delle idee elementari del gioco delle perle. Jacobus era contento dello scambio di idee con un giovane così istruito e ancora desideroso di coltivarsi, ma questo piacere non gli era concesso di frequente, mentre per Knecht il contatto con lo storico e i suoi insegnamenti diventarono un nuovo gradino di quel risveglio sul quale fondava la propria vita. Per dirla in breve, imparò dal padre la storia, imparò a distinguere le leggi e le contraddizioni dello studio storico e della storiografia e, negli anni successivi, imparò a vedere il presente e la propria vita come realtà storiche. Josef accettava le critiche con molta calma e, quando gli pareva che il vecchio, nel suo fervore appassionato, andasse troppo oltre, ne respingeva freddamente gli attacchi. Tra le osservazioni contrarie alla Castalia ce n'erano alcune che Josef non poteva fare a meno di approvare, sia pure in parte, e anzi, in un punto, dovette seriamente ricredersi. Si trattava del rapporto fra lo spirito castalio e la storia universale, di ciò che il padre chiamava la totale deficienza di senso storico. «Voi matematici e giocatori di perle», diceva talvolta padre Jacobus, «avete distillato per vostro uso e consumo una storia universale che consta solamente di storie dello spirito e dell'arte». La vostra storia è priva di sangue e di realtà. Conoscete esattamente la decadenza della sintassi latina nel secondo o terzo secolo e non avete un'idea di Alessandro o di Cesare o di Gesù Cristo. Voi trattate la storia come il matematico tratta la matematica, dove non ci sono che leggi e formule, ma niente realtà, niente bene e male, niente tempo, né ieri né domani, solo un presente perpetuo, piatto, matematico. Chi studia storia porti pure con sé la commovente fede infantile nella facoltà ordinatrice del nostro spirito e dei nostri metodi, ma oltre a ciò e nonostante ciò, rispetti la verità incomprensibile, la realtà e unicità degli avvenimenti. Studiare storia, caro mio, non è uno scherzo, non è un gioco senza responsabilità. Lo studio della storia presuppone che si sappia come esso tenda a qualcosa di impossibile, eppure necessario, nonché importante. Studiare storia significa abbandonarsi al caos, ma nello stesso tempo conservare la fede nell'ordine e nel senno. È un compito serio, caro il mio giovane, e forse tragico. Tra i discorsi del padre, che Knecht comunicò allora per lettera agli amici, ne citeremo ancora uno che ci sembra caratteristico. «Per me, che sono anzitutto uno storico del nostro ordine benedettino, la cosa più attraente, meravigliosa e degna di studio nella storia non sono le persone, non i colpi riusciti o falliti. Il mio amore e la mia insaziabile curiosità convergono invece su manifestazioni come può essere il nostro ordine, su quelle organizzazioni durevoli che tentano di adunare, educare e trasformare uomini nello spirito e nell'anima, di farne, mediante l'educazione e non mediante l'eugenetica, con lo spirito e non con il sangue, una nobiltà che renda capaci di servire come di regnare. Lasciamo stare la Santa Chiesa, che per noi credenti è al di sopra di ogni discussione. Se ordini come quello dei Benedettini, dei Domenicani e più tardi dei Gesuiti sono vissuti per secoli e dopo tanti secoli, a onta degli sviluppi, delle degenerazioni, degli adattamenti e delle violenze, hanno mantenuto il loro volto e la voce, i loro gesti, la loro anima individuale, devo dire che questo è per me il più memorabile e venerando fenomeno della storia. Knecht ammirava il padre anche nelle sue colleriche ingiustizie. E dire che a quel tempo non aveva ancora un'idea di chi fosse realmente padre Jacobus. In lui vedeva solo uno scienziato geniale e profondo, e non sapeva ancora come fosse, oltre a ciò, un uomo che stava coscientemente nella storia e contribuiva a formarla, essendo la guida politica della sua congregazione. Il conoscitore del passato e presente politico, colui al quale, da molte parti, si chiedevano informazioni, consigli, interventi. Per circa 2 anni, fino alla sua prima licenza, Knecht ebbe contatti col padre esclusivamente nel campo dell'erudizione e della vita e attività, della sua fama e influenza, conobbe un lato solo, quello rivolto a lui. Lo scienziato sapeva tacere anche nell'amicizia, e i suoi confratelli lo sapevano anch'essi meglio di quanto Josef non pensasse. Dopo un paio d'anni, Knecht si inserì nella vita del convento fin dove era possibile a un ospite venuto da fuori. Le lettere, con le quali rispondeva ogni semestre alla domanda ufficiale del Ludi Magister se a Maria Fels si fosse contenti di Josef Knecht, erano tutte elogi. Ma più di queste lettere si esaminavano attentamente nella Castaglia gli elenchi delle lezioni e delle testimonianze sul corso tenuto da Knecht. Benché il livello fosse modesto, si era soddisfatti del modo in cui l'insegnante sapeva adattarsi a questo livello e in genere alle consuetudini e allo spirito del monastero. Particolare soddisfazione però e vera sorpresa alle autorità castalie che ben inteso non ne diedero comunicazione all'incaricato, recò la notizia dei contatti frequenti, confidenziali, infine addirittura amichevoli, fra Knecht e il famoso padre Jacobus. Questa relazione diede ogni sorta di frutti, dei quali ci sia permesso di anticipare un poco il racconto, o almeno di quel frutto che più era caro a Knecht. Il giovane, in apparenza soltanto scolaro intento ad ascoltare e ad apprendere, portò piano piano il padre, che da principio aveva usato le parole castalio o giocatore di perle soltanto in tono ironico o addirittura come fossero insulti, a riconoscere, a tollerare e infine ad ammettere con rispetto anche quel modo di pensare, anche quell'ordine, anche quel tentativo di nobile formazione dello spirito. Padre Jacobus smise di criticare la giovane età dell'ordine castalio, che, avendo poco più di 2 secoli di vita, era superato da quello benedettino di 1,5 millenni. Smise di considerare il gioco delle perle soltanto come dandismo estetico e cessò di respingere per impossibile un'amicizia o un'alleanza a venire tra i 2 ordini. Per molto tempo, Knecht non immaginò che nella parziale conquista del padre, da lui ritenuta una gioia privata e personale, le autorità scorgevano l'apice della sua missione a Mariafels e del lavoro ivi compiuto. Ora, presso i benedettini, non senza stupore e rispetto, aveva conosciuto nella sua forma viva una religione che fino allora gli era nota soltanto in teoria e nello sviluppo storico. Prendeva parte a numerosi uffici divini e, occupandosi di alcuni scritti di padre Jacobus e assorbendone i discorsi, aveva avuto una visione chiara di quel cristianesimo che, nei secoli, era stato tante volte superato e fuori moda, ma che ogni volta, atrofico e cristallizzato, aveva saputo risalire alle proprie fonti e rinnovarsi, lasciandosi alle spalle la modernità già vittoriosa. E non reagiva neanche seriamente al pensiero, suggeritogli da tutte quelle conversazioni che anche la civiltà castalia potesse essere soltanto una forma tarda e laterale, secolarizzata e caduca, della civiltà occidentale cristiana, dalla quale un giorno sarebbe stata riassorbita. Pur ammesso questo, aveva detto un giorno al padre che il suo posto e il suo servizio gli erano ormai assegnati nell'ordine castalio, non già in quello benedettino. Là doveva dar buona prova e collaborare, senza curarsi se l'ordine cui apparteneva potesse aspirare a una durata perpetua o soltanto lunghissima. La conversione sarebbe stata per lui un modo non proprio degno di fuggire. Knecht era da circa 1 anno insieme coi padri, allorché un giorno comparve nel convento un ospite che gli fu tenuto lontano con molta cura. Si evitò persino una rapida presentazione. Incuriosito, Knecht tenne d'occhio il forestiero, che del resto rimase soltanto pochi giorni, e formulò le più svariate ipotesi. Pensò che l'abito ecclesiastico che quello portava potesse essere un travestimento. Lo sconosciuto aveva lunghi convegni a porte chiuse con l'abate e particolarmente con padre Jacobus. Riceveva spesso e spediva messaggi urgenti. E allora gli venne in mente il capo della polizia, il cortese Dubois, col suo invito a tenere sempre d'occhio proprio quegli avvenimenti. E quantunque non avesse alcuna voglia o vocazione per siffatti rapporti, provò rimorsi al pensiero che da molto tempo non aveva più scritto a quell'uomo ben intenzionato e doveva certo averlo deluso. Gli scrisse dunque a lungo, cercò di giustificare il proprio silenzio e, per dare un po' di sostanza alla lettera, riferì alcunché delle sue conversazioni con padre Jacobus. Non immaginava con quale attenzione e da chi mai la sua lettera sarebbe stata letta.